Torta 2. Abbiamo deciso di fare un secondo monumento a Vittorio Emanuele proprio di fronte, di faccia, una specie di specchio del Vittoriano, uguale in tutto e proprio in pietra, eccetera, mica polistirolo, marmo, travertino, bronzo, eccetera. Costruiamo tutto l'aggeggio, l'ordigno da un'altra parte, così non blocchiamo il traffico e poi lo imbraghiamo e lo caliamo con 200 elicotteri Apache su Piazza Venezia. Prendendo due misure all'ingrosso potrebbe starci, ma non importa se non c'entra, nel caso si sgretolano un po' le mura dei palazzi intorno. L'effetto specchio monumento-monumento sarà interessante, bisogna anche trovare un secondo milite ignoto, al limite se ne può mettere anche uno noto.